Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Quanto e come la pubblicità modifica aspirazioni e giudizi dei bambini consumatori di domani? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, è l'interrogativo intorno al quale ruota il primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. È il soggetto di un interessante spettacolo teatrale che fa da spunto alla nostra riflessione. Per il focus sui trend parliamo poi di mapping, quando le mappe fanno tendenza. Prima però ci sono le notizie e le curiosità di questa settimana. Primo risultato italiano per Detox, la campagna internazionale promossa da Greenpeace per ripulire dalle sostanze tossiche le filiere della moda. Benetton si impegna a eliminare le sostanze chimiche pericolose dai propri prodotti in tutta la catena di fornitura entro il 2020. È il 13° marchio mondiale a farlo. Nuova frenata dell'inflazione che a dicembre scende al 2,3%, ma il raffreddamento dei prezzi a fine anno non riesce a contenere il tasso medio che per il 2012 si assesta al 3%. E il carrello della spesa, l'insieme dei prodotti acquistati con maggiore frequenza, resta sempre sopra il livello generale dei prezzi, al 4,3%, ai massimi da 4 anni. Continua a crescere il successo della marca commerciale o private label, i prodotti a marchio dell'insegna. In supermercati e ipermercati ha raggiunto il 17%. Il dato arriva dalla nona edizione di Marca, fiera del settore. Carrefour, intanto, lancia un'iniziativa a favore delle famiglie numerose e degli anziani. Fino al 31 marzo, il gruppo della grande distribuzione, nei 1200 punti vendita presenti in Italia, azzera l'IVA sui prodotti freschi nella spesa dei nuclei familiari da 5 membri in su e delle persone oltre i 65 anni di età. Save your token, salva la tua pedina. Questo è il nome della campagna online firmata Monopoli per invitare il pubblico a votare la propria pedina preferita, evitandole il dimenticatoio. La Hasbro, produttrice dello storico gioco da tavolo, 300 milioni di scatole vendute in 111 paesi nel mondo, ha infatti deciso di sostituirne una. Per scegliere quale si può votare fino al 5 febbraio sulla pagina Facebook Monopoli Italia. La borsa della spesa. Lei è un'esperta di marketing e la sua azienda prende di mira in modo specifico bambini e adolescenti con prodotti, media e servizi, giusto? Prendere di mira non è il termine esatto. Noi ci prendiamo cura. Ecco l'espressione che ci piace utilizzare in azienda. Noi ci prendiamo cura dell'altro, nello specifico dei più giovani, delle fasce più sensibilmente a rischio. Se non erro, la vostra attività era praticamente inesistente 50 anni fa. Corretto. Mentre oggi alimentate quasi l'intera economia di consumo, dal momento che il potere d'acquisto del bambino, sommato all'influenza esercitata dai bambini stessi sugli acquisti dei genitori, ha raggiunto oggi cifre record. Corretto. Un successo dovuto allo sviluppo tecnologico? Beh, come è evidente, riviste e fumetti hanno lasciato il posto a radio e televisioni, oggi sostituite da computer, telefonia mobile e social media. E i genitori hanno perso la loro totale capacità di controllo. In altre parole, la vostra azienda si occupa proprio di questo controllo, di strumentalizzare le emozioni del bambino nel momento della crescita. No, noi stimoliamo i desideri. I genitori li gestiscono e i figli li subiscono. Una manager esperta di kid marketing, il suo assistente e una giornalista d'inchiesta sono i tre protagonisti di Assalto ai bambini, Primo sguardo, spettacolo che indaga nel mondo dei prodotti e del marketing per bambini, futuri consumatori di domani. Un modo per stimolare la coscienza e il consumo critico nei ragazzi e negli adulti chiamati ad educarli. Lo spettacolo è in scena fino al 27 gennaio al Teatro Filodrammatici di Milano. Ne abbiamo parlato con il regista, autore e attore in scena Corrado Accordino. La riflessione nasce dal mondo che vedo crescere intorno a mia figlia di 8 anni e ho fatto un'analisi sulle aziende che si occupano di kid marketing, quindi modelli di invasione, tutte le strategie di persuasione sui giovani e la gestione della creatività. E da lì è nato un thriller.

essere e avere. Nuovo in studio con Essere Avere, seconda parte dedicata come sempre al focus sui trend. Oggi parliamo di mappe e consumi, lo facciamo in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Lab. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Dal telefonino al navigatore, dai social network che ci chiedono dove sei, all'uso della geografia nella moda e nel design, quanto sono diventate familiari le mappe? Sono entrate nella quotidianità di molti di noi, sono uno dei simboli più diffusi nell'immaginario collettivo e fanno tendenza. Patrizia, tutti pazzi per il mapping, è così? Sì, siamo connessi, mobili, in rete, proprio perché potremmo essere ovunque. La domanda dove sei è quella che tutti facciamo, che tutti siamo interessati a fare alle persone a cui telefoniamo, ed è la stessa domanda che ci fanno i nostri smartphone e tablet, formulata più o meno così: mi consenti di localizzare la tua posizione? Avere un GPS in tasca significa dunque accedere a sempre maggiori informazioni su un certo luogo mentre si è in quel luogo, dai negozi ai ristoranti ai musei, orari, ma anche poste, commenti, recensioni fatte da altri, e conoscere per esempio le promozioni locali, come nel caso di My Groupon, o eventi culturali, ed essere parte di quelle stesse informazioni, perché a nostra volta ci geolocalizziamo, facciamo per esempio il check-in, cioè ci registriamo nei posti in cui andiamo. Questa è un'enorme opportunità per il marketing, evidentemente. Consideriamo che nel mondo il numero degli abbonamenti all'internet mobile che consente questi servizi appunto di localizzazione, di mappatura del dove siamo, sono in crescita esponenziale. Oggi quasi 1 miliardo, con una stima di 5 miliardi entro il 2017. Le informazioni sui luoghi sono un parametro essenziale per la personalizzazione e per il funzionamento di molti servizi del digitale. Così per esempio Instagram, piattaforma che gestisce le foto, tagga, cioè ordina le foto scattate per località. E poi per servizi immobiliari quali la ricerca di case come casa.it, o di programmazione cinematografica, My Movies, o mostre d'arte come Arte Go, o per cercare un passaggio in macchina in modalità carpooling come nel caso di Lyft, o ancora per sapere quali sono i posti migliori di una città sconosciuta, ecco che i software cercano case, film, automobili o ristoranti esattamente nei paraggi in cui ci troviamo. E non a caso quello delle mappe è il terreno di scontro tra i giganti tecnologici. Pensiamo alla salto di Apple a Google Maps, o ancora a Nokia, che ha appena lanciato Here, che significa qui, il servizio cartografico su cui l'azienda sta puntando molto per il suo rilancio. E possiamo sapere, e lo possono sapere anche le aziende e i brand, chi tra le persone che conosciamo si trova nei paraggi. È il social mapping o social discovery, sapere quali amici o amici di amici sono appunto nello stesso luogo in cui ci troviamo noi. Questa è l'idea alla base di Glance, il social network creato dall'italiano Andrea Vaccari, che è stato acquisito non a caso da Facebook. Oltre alle mappe geolocalizzate, cioè alle cartine geografiche connesse con le persone, grazie alla tecnologia, all'ecosistema digitale in cui ci troviamo oggi, fenomeno interessante è anche quello delle mappe per ordinare le informazioni. Parliamo dell'infografica, cioè le mappe grafiche, che ci aiutano a orientarci nelle idee, nei contenuti e nei numeri dei dati, appunto in un'epoca di sovrabbondanza informativa. Interessante il caso di Accurat, con sede a Milano e New York, un'agenzia che progetta strumenti visuali e piattaforme interattive per creare appunto esperienze narrative visive. Mappano qualsiasi informazione e contesto che diventano così di immediata comprensione. E nell'era di mappe e geolocalizzazioni c'è anche chi pensa però a come perdersi, alla ricerca della strada sbagliata. Sono le applicazioni per non arrivare a destinazione. Sentiamo. Ritornare sempre al punto di partenza. Vademecum per perdere la strada e non arrivare mai a destinazione. E forse quel che cerco neanche c'è. Nell'era di Google Maps e telefonini con GPS sempre in grado di indirizzarci verso la giusta via, la tecnologia riscopre la curiosità di ciò che resta sconosciuto e casuale, con programmi pensati ad hoc per seguire gli itinerari sbagliati in città, come AWOL, guida con lo scopo di farci smarrire. In un mix tra provocazione e divertimento, il pacchetto include una bussola che non funziona e una mappa con una serie di percorsi algoritmici capaci di farci tornare sempre al punto iniziale. Nella stessa direzione il web service Get Lost Bot segnala i posti che si visitano più frequentemente e offre delle strade alternative per evitare ripetizione e noia. E così fanno anche le applicazioni per smartphone e tablet come Drift, che facilita la confusione nei luoghi più familiari, e Serendipy Tour, che aiuta a trovare proprio quello che non si stava cercando. Patrizia, questi usi controcorrente, definiamoli così, lo testimoniano. Le mappe sono diventate quasi un'ossessione contemporanea, è così? Ma sì, la mappa rappresenta un po' il simbolo dei riferimenti, quindi la diffusione delle mappe ci dà la misura della complessità del mondo in cui viviamo e la loro utilità è proprio legata all'essere strumento mediatore tra ordine e caos, quindi un modo per mettere in relazione le cose e dar loro un senso. La mappa è anche, non a caso, un tema stilistico di molti prodotti. Il caso dei casi è Alviero Martini, marchio italiano di moda e accessori, che propone un intero mondo geografico. Calzature, abiti, borse, valigie, tutto quello che produce ha questo comune denominatore che rende questi prodotti unici e riconoscibilissimi, appunto, con questo pattern fatto di cartine geografiche. Diciamo mappe, pensiamo certamente a tutte le mappe digitali, ma anche alle mappe che usiamo quando giriamo in una città sconosciuta, e anche queste diventano un oggetto che si innova, diventano più friendly. È il caso delle mappe accartocciate, le Crumble City Map, che risolvono il grande problema del ripiegamento, appunto, una volta aperte, quando soprattutto siamo per strada, e diventano un oggetto ingestibile. Bene, queste mappe accartocciate fatte per 36 città si aprono e si chiudono in 2 secondi, perché non sono da ripiegare ma appunto da appallottolare, da rimettere nell'apposito astuccio. Pesano 21 grammi, sono di un materiale resistentissimo anche all'acqua, e adesso in versione anche junior per bambini, solo per 5 città, con i luoghi imperdibili segnalati proprio per loro. Inaspettato portato informativo per la mappa fatta con il Lego dall'artista messicano Samuel Granados, che ha, con questo metodo semplice e divertente, costruito una mappa 3D, proprio fisica, che sporge dell'emigrazione messicana negli Stati Uniti, rappresentando i dati ufficiali, quelli del Centro di Ricerca sulla Migrazione, Globalizzazione e Povertà, in scala 1 a 10.000, dove 1 è il singolo mattoncino di Lego che contiene appunto 10.000 persone. Ovviamente, come quasi tutti gli altri oggetti, anche le mappe si riciclano e diventano altro, per esempio buste, carta da pacchi, biglietti di auguri, eccetera. Interessante Recycle Map Envelopes, una linea di buste e carta da lettera classiche fatte appunto con cartine geografiche riciclate. Rimanendo nel mondo dei consumi, ma dal punto di vista della ricerca, un accenno va fatto al mapping cerebrale, di grande interesse anche mediatico, sia eye tracking che brain imaging, cioè le mappe, i tracciati e dei movimenti oculari, così come delle aree cerebrali che si attivano di fronte alla vista di un prodotto, un packaging, un logo, eccetera. Sono vere mappe del nostro cervello utilizzate dal neuromarketing e in neuroeconomia per comprendere appunto preferenze, scelte e comportamenti d'acquisto dei consumatori, che appunto sono scritti e decodificabili direttamente dal nostro cervello. E in architettura si creano nuove mappe del territorio per riqualificarlo. È la mappa degli edifici abbandonati che vengono catalogati in vista di una loro rigenerazione. Lo fa Impossible Living, startup con sede a Milano, che sta costruendo in modalità wiki o crowdsourcing, cioè con la collaborazione di tutti, grazie a un'app dedicata con la quale si possono scattare foto e descrivere gli edifici da segnalare. Cosa c'è di nuovo a Cosa c'è di nuovo in rete su mappe, consumi e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. Mi ricollego al concetto di social discovery di cui parlava Patrizia. Geolocalizzare tutti gli aggiornamenti e le conversazioni dei social network fornendo una mappa in costante evoluzione della posizione e delle attività di tutte le nostre conoscenze, che si trovano dietro l'angolo o in qualsiasi parte del mondo. È quello che fa Benju, un'applicazione per smartphone e tablet lanciata nel 2011 negli Stati Uniti e che da pochi mesi è sbarcata anche in Italia. In pratica, se due nostri amici caricano delle foto dell'Empire State Building e di Little Italy, uno su Twitter e l'altro su Facebook, Benju ci comunicherà in tempo reale che si trovano entrambi a New York. Analogamente sarà possibile creare una propria lista di luoghi personalizzati per scoprire cosa sta succedendo e dove in ogni momento, proprio in base agli aggiornamenti delle nostre liste di amici e follower. Chi usa i social network sa che quando si è ad esempio su Facebook non si sa cosa stia succedendo su Twitter o su un altro social network e viceversa. Questa applicazione promette di ovviare a, chiamiamolo così, questo inconveniente, fungendo da aggregatore dei principali social network e permettendo di consultare in tempo reale e in un'unica schermata tutti gli aggiornamenti provenienti dai propri contatti e amici, che diversamente sarebbero disseminati in Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare e LinkedIn. Grazie Alessia. Patrizia, perché siamo tutti così assetati di mappe? Una moda o qualcosa di più? Ma dunque, dal punto di vista delle applicazioni marketing, diciamo, per aumentare i punti di contatto tra brand e consumatori, mi sembra che questo sia evidente in termini di potenziale. C'è anche un livello simbolico però interessante, cioè la mappa è un'immagine che affascina e convince molto perché richiama alla mente, da un lato, il desiderio dell'orientamento, del controllo, ma al contempo dell'altrove, come abbiamo sentito dalla scheda, della casualità, della serendipità, della scoperta di luoghi noti o meno noti in cui appunto sperimentare l'evasione. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Veniteci a trovare sul sito e sulla nostra pagina Facebook in attesa di risentirci, come sempre, domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.